Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Sono vere professioniste. Quelle sanno bene come entrare. Per quella invece è la prima volta. Anche se ti do il biglietto, come fai a passare i controlli? Lo sai che ti fanno se ti prendono, lo sai che ti fanno. Alla ragazza è vietato, lo sai? Eh? Che ti ha fatto entrare qui? Fermati! E inseguitela! Offside, in fuorigioco. Così si intitola il film del regista iraniano Jafar Panahi, orso d'argento al Festival di Berlino del 2006, che racconta il sofferto rapporto tra le donne e lo sport in Iran. Per poter vedere una partita della nazionale iraniana maschile di calcio, alcune tifose provano ad aggirare il divieto imposto dalle autorità, travestendosi da maschi, proprio per evitare quel divieto che nega alle donne di assistere alle partite di calcio maschile. Queste tifose verranno però scoperte, verrà a loro negato il diritto di entrare allo stadio e a fine partita saranno consegnate alla polizia. Vicenda che rimanda da vicino a quella di cui oggi gli dei dello sport e di Olimpia ci impongono di occuparci, quella di Gonchek Ghavami, 25enne irano-britannica, arrestata dalle autorità di Teheran per il solo fatto che il 20 giugno scorso avrebbe voluto assistere al Palazzo dello Sport Azadi di Teheran alla partita di World League maschile tra l'Iran e l'Italia, contravvenendo così a una proibizione nata per il calcio all'indomani della rivoluzione comeinista del 1979, ma estesa nel 2012 anche alle gare di volley, sport popolarissimo in Iran. La donna è stata ora condannata a un anno di prigione, sentenza che ha provocato la reazione di appassionati di sport, Federvolley mondiale e associazioni per i diritti umani. Silenzio invece, ma capiremo a breve perché, da parte di governi e istituzioni internazionali. Insomma, una storia che ci tocca da vicino, visto che l'indiretto coinvolgimento anche dei nostri azzurri. E allora il nostro primo ospite è proprio Mauro Berruto, commissario tecnico della Nazionale Azzurra di Pallavolo. Benvenuto coach Berruto e grazie per essere oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, buonasera a voi, grazie per l'invito. Coach Berruto, quel 20 giugno lei e i suoi azzurri siete stati, vostro malgrado, partecipi di questo episodio che ha suscitato proteste e sdegno. Ne avete avuto in qualche modo percezione allora? Che atmosfera c'era al Palazzo dello Sport di Teheran quel giorno? No, purtroppo no, nel senso che la sensazione, ovviamente insomma eravamo a conoscenza del fatto che ci fossero queste limitazioni per ciò che riguarda l'accesso al palazzo dello sport alle donne, perché vabbè è purtroppo cosa nota da un po' di tempo insomma, però in quel momento specifico non ci siamo accorti di nulla. Siamo entrati, noi la squadra risiedeva in questo grandissimo impianto polisportivo che è alle porte di Teheran, dove c'è il palazzo dello sport, dove c'è il campo di calcio, lo stadio, dove ci sono molte serie di federazioni, dove c'è anche l'hotel che ospita le squadre che vanno lì a giocare, quindi insomma il tragitto verso il palazzetto è stato brevissimo, poche centinaia di metri davvero. Siamo entrati chiaramente con i nostri tempi, con i nostri ritmi, senza avere minimamente la sensazione che stesse succedendo o che fosse successo qualcosa fuori. Il ricordo è quello di un impianto pienissimo, veramente un numero di spettatori pazzesco, un impianto rumorosissimo, quindi questo pubblico che era estremamente partecipe e molto rumoroso, però devo anche essere sincero, mai con la sensazione di ostilità o di insomma un'atmosfera che non fosse anche molto simile da questo punto di vista a quella che viviamo noi con la pallavolo in Italia, cioè l'atmosfera era molto coinvolgente, era molto bella, di sicuro non c'erano donne insomma sulle tribune, mi ricordo, anche questo mi colpì, molte donne presenti però nella tribuna stampa e anche nella successiva classica conferenza stampa che si svolge al termine di ogni partita, quasi tutte le domande vennero da giornaliste donne che erano presenti alla gara. Questo fatto ricordo che ai tempi, appunto, senza avere la consapevolezza che era successo questo episodio, mi aveva generato un po' di curiosità. Colpisce poi che a essere ferita sia proprio la pallavolo, forse lo sport femminile per eccellenza, vero coach? Sì, io onestamente allargherei e aggiungerei che, insomma, il tema non è in discussione che si tratti di pallavolo o di qualunque altro, o di qualunque altro evento sportivo. È chiaro che per l'Iran la pallavolo è diventata uno sport assolutamente importantissimo, seguitissimo e davvero, insomma, grazie anche ai successi della squadra nazionale negli ultimi anni, parlare di pallavolo in Iran è davvero parlare di uno sport principale, insomma, non come si dice da noi, no? Quando si parla di sport minori. Quindi credo che non ci sia neanche da discutere il fatto che non sia accettabile l'idea che le donne non possano accedere, ripeto, nella fattispecie a parlare di pallavolo, ma in generale a eventi sportivi o a eventi culturali o quant'altro, insomma, credo che sia una cosa fuori dal tempo. Qui a Olimpia, coach Berruto, abbiamo voluto provare ad andare alle radici dell'arresto di Goncek Gavami, tifosa colpevole, ricordiamolo, del reato di pallavolo. Farihan Sabahi è scrittrice, giornalista e docente universitaria esperta di Medio Oriente e in particolare di Yemen e di Iran. Così inserisce il caso di Goncek in un quadro generale più ampio e diverso. È una questione politica perché in realtà la ragazza non è accusata semplicemente di essere entrata allo stadio, ma di propaganda contro il regime e in un certo senso anche di spionaggio. Questo perché ha doppio passaporto, passaporto iraniano perché è figlia di iraniani, ma passaporto anche britannico. Tra l'altro ha studiato in Inghilterra, si è laureata in giurisprudenza all'Università di Londra e poi, come tante seconde generazioni, ha deciso di tornare in Iran per cercare di capire qualcosa di più di quel paese da cui vengono i suoi genitori, e ha lavorato tra l'altro a un progetto sui bambini di strada. Ma la questione è aperta tra Teheran e Londra per una serie di motivi. Il 24 novembre scade il termine per il negoziato sul controverso programma nucleare, ma soprattutto il 29 novembre sono 3 anni che la sede diplomatica di Londra a Teheran è chiusa, perché proprio il 29 novembre del 2011 l'ambasciata inglese era stata attaccata da un gruppo di fanatici e quindi il Foreign Office aveva deciso di chiudere. Ma c'è dietro anche la questione che chi ha doppia cittadinanza è sospettato molto spesso di essere una spia, ma finisce anche a essere una pedina in un gioco più grande. Complesso scenario internazionale, quindi, ma anche un rapporto sempre contrastato tra donne, sport, politica e religione. Tante le storie che la Sabahi racconta nell'ebook Noi donne di Teheran. Nel libro Noi donne di Teheran racconto di come nelle Olimpiadi di Londra del 2012 Arezou abbia dovuto rinunciare al nuoto e ripiegare sul kayak. Nel 2012 Arezou aveva 17 anni, aveva passato gli ultimi 6 nuotando nelle piscine di Teheran negli orari riservati alle donne, ma le leggi iraniane le hanno impedito di mostrarsi in pubblico in costume alle Olimpiadi, ma questa giovane donna non si è data per vinta. In muta leggera e foulard è salita sul kayak e a Eton alle Olimpiadi è arrivata 7ª. Ci sono poi tantissime donne che praticano per esempio kickboxing, e questo sport, il kickboxing, non è praticato soltanto nelle palestre della Teheran alta e borghese, ma è praticata anche nei quartieri bassi e popolari, persino nei villaggi, perché pensate che il kickboxing, tirare calci e pugni, è ritenuto un buon modo per sfogarsi. Poi c'è tutta una parte del libro in cui racconto di cosa voglia dire andare a Share per le iraniane. Share dà un grande senso di libertà, e a un'ora di macchina o di pullman da Teheran ci sono Dizin e Shemshak, che sono 2 località affollate. Ma affollate di chi va a Share a Teheran? Molto spesso sono i Bacchanane, sono i figli di papà che vanno in giro con gli snowboard, le ragazze sono truccatissime come se dovessero andare a una festa. Ecco, un paio d'anni fa la Repubblica Islamica ha posto delle norme severe, cioè sugli impianti di risalita si va, ma se sei donna ci vai soltanto con tuo padre, tuo fratello o tuo marito. Questo perché sulle piste ovviamente ci si incontra, ci si dà appuntamento e su chilometri e chilometri di piste innevate non sempre la polizia riesce a controllare. Questa norma che vorrebbe impedire l'accesso agli impianti di risalita alle giovani donne non accompagnate è un modo per colpire le donne, ma è soprattutto un modo per colpire la borghesia, quella borghesia che coglie ogni occasione per sfidare i codici di comportamento. Geopolitica, tensioni sociali, norme religiose reazionarie e che ledono i più elementari diritti umani. Il caso di Gonciek è tutto questo, ma anche e soprattutto il caso di una persona, una donna, ora in prigione e che ha già fatto due scioperi della fame per protestare contro la propria detenzione. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, ci spiega come l'organizzazione non governativa sta operando per mettere sotto pressione le autorità di Teheran. Con la modalità classica che ci contraddistingue dal 1961 e con l'aiuto della tecnologia rispetto a 53 anni fa, ovvero con appelli destinati alle autorità iraniane, le autorità iraniane in questo caso il capo del potere giudiziario, al quale da ogni parte del mondo faremo arrivare appelli chiedendo l'immediata scarcerazione di Gonciek Gavami. Cercheremo di avere del partnership, delle collaborazioni, dei compagni di viaggio importanti in questi mezzi di informazione, ovviamente, come nel caso di oggi pomeriggio, ma anche, già che il caso riguarda la pallavolo, anche un intervento della Federazione Internazionale e anche della Federazione Italiana Volley. Mobilitazione del web, appelli da parte di personaggi noti della cultura e dello sport, ma anche Amnesty paga, nel caso di Gonciek Gavami, il silenzio di governi ed istituzioni sovragovernative. Sì, e c'è anche la risposta purtroppo, perché questo non è il primo caso in Iran di una disattenzione colpevole da parte della comunità internazionale. In generale, quando si tratta di diritti umani, intervenire o non intervenire è sempre un'opzione legata a contingenze di natura politica, rapporti economici, a questioni strategiche. Nel caso dell'Iran, io devo dire, il presidente Rouhani nell'anno e più, poco più, che è in carica, ha fatto una sorta di incantesimo al mondo. Si è accreditato come un presidente moderato con il quale riaprire vecchi dossier rimasti in sospeso non è più considerato una minaccia per la comunità internazionale. Il risultato di tutto questo, che è teoricamente uno sviluppo positivo, è stato che di diritti umani non si parla più. Paro Berruto, coach dell'Ital Volley maschile, abbiamo sentito quanto insomma è complesso e difficile il caso di Gonciek Gavami. Serve mobilitarsi sperando poi lo faccia anche la politica. Intanto lo sta facendo di sicuro la pallavolo con appelli come quello fatto dalla squadra maschile di Padova. Basteranno secondo lei? Ma guardi, è inevitabile, nel senso che credo che un continuare di queste prese di posizione sia fondamentale, perché ripeto, il diritto non è in discussione in questo caso, quindi benissimo tutte le mobilitazioni che anche così spontaneamente, mi ha fatto molto piacere vedere quanto lei citava, realizzato dalla squadra, da una squadra di Serie A come quella di Padova, e così è importante il contributo individuale, però credo davvero che sia anche tanto importante per esempio il contributo che la Federazione Internazionale possa portare in questa vicenda in maniera forte. C'è stato recentemente il congresso mondiale della Federazione Internazionale di Pallavolo, proprio qui in Italia, tra l'altro a Cagliari, c'è stata una presa di posizione molto netta e molto forte da parte del Presidente federale, che si chiama Ari Grassa, e io credo che quello sia la strada che mi auguro possa portare a degli risultati, perché adesso, al di là dell'opinione, del movimento di opinione, è anche molto importante tentare quello che si può tentare di fare per risolvere questa situazione nella sua specificità. Continuiamo e speriamo allora. Intanto grazie Mauro Berruto per essere stato oggi cittadino di Olimpia. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. La vicenda di Gonchek Gavami, l'attivista irano-britannica condannata dalle autorità di Teheran a un anno di prigione per aver voluto assistere alla partita di volley maschile tra Iran e Italia lo scorso 20 giugno, ha riportato alla mente, a noi cittadini di Olimpia, una pagina leggendaria della storia dei giochi, che ebbe per protagonista una donna africana e musulmana. Agosto 1984, è un caldo pomeriggio d'estate al Coliseum Stadium di Los Angeles. Nel programma di quei giochi olimpici, segnati dal boicottaggio dell'Unione Sovietica e di molti paesi filocomunisti in risposta a quello americano dei giochi di Mosca di 4 anni prima, è il momento della finale dei 400 metri ostacoli femminili, che si disputano per la prima volta alle Olimpiadi. In pista, già sui blocchi di partenza, in corsia 3, si sta concentrando per il via un atleta davvero particolare. Nawal El Moutakawel è una marocchina musulmana di 22 anni, ma cresciuta tecnicamente alla Iowa University negli Stati Uniti. Già da 2 anni ottiene dei buoni risultati e l'assenza di russe e tedesche dell'est può aprirle prospettive insperate. Occhio però alla statunitense Judy Brown, sua amica e rivale in corsia 8. Set. Lo sparo dello starter trova Nawal pronta e reattiva. Il suo scatto è bruciante, la sua falcata è ampia e precisa, il passaggio sugli ostacoli pulito, l'ingresso sul rettilineo finale con un vantaggio tale che la marocchina può guardarsi ai lati. I keep turning my head and everybody was just far behind and was kind of surprising us. I couldn't believe it. Provai a voltarmi e vidi che le altre erano parecchio dietro di me. Ne fui davvero sorpresa, non potevo crederci, ricorda Nawal. Pochi passi ancora e per la El Moutakawel è il trionfo, proprio davanti all'americana Brown e la romena Coyocaru, con il record olimpico di 54 secondi e 61 centesimi. È il primo oro olimpico nella storia del Marocco, il primo conquistato da una donna musulmana. Il re del Marocco telefona subito da Casablanca alla neocampionessa e impone che tutte le bambine nate quel giorno vengano chiamate Nawal, proprio in onore della trionfatrice olimpica. La El Moutakawel diventa così il simbolo delle donne marocchine e musulmane, una guida da seguire sulla via dell'emancipazione e dell'affermazione dei propri diritti. Quel giorno in tribuna al Coliseum Stadium di Los Angeles c'era anche, allora giovane cronista, Gianni Merlo, oggi prima firma della Gazzetta dello Sport e presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva. Benvenuto Gianni a Olimpia, la città dello sport. Sono molto contento di essere con voi. Beh Gianni, oro davvero storico quello della El Moutakawel, primo trionfo olimpico del Marocco. Certo, ma oltretutto era anche il primo oro di una donna africana e musulmana. Lei aveva studiato negli Stati Uniti e aveva sfruttato al massimo l'occasione. Diciamo che talvolta anche la fortuna aiuta a cambiare il corso della storia, perché Nawal, se ci fossero state le russe e le tedesche est, probabilmente sarebbe arrivata quinta, sesta, non avrebbe vinto e quindi la storia non sarebbe stata quella che possiamo raccontare ora. Invece questa sua vittoria ha cambiato non solo un'immagine dell'Africa del nord, l'Africa musulmana, ma anche permesso a lei poi di diventare un personaggio importante sia in Marocco, lei è stata anche ministro, poi è stata la prima a organizzare una gara su strada femminile che adesso conta più di 20.000 partecipanti e solo donne, quindi tu immagini in un paese dove le donne ancora non hanno raggiunto il livello, diciamo, di libertà che noi abbiamo, ma lei si sta battendo proprio per farle raggiungere uno stadio sempre superiore. Sta facendo un investimento nella cultura. È una donna eccezionale. Nawal è stata la apripista anche per molte altre donne marocchine diventate grandi nell'atletica leggera, vero? Eh sì, perché questo ha permesso a tutto un movimento di emergere. Cioè, lei è stata la prima che ha battuto un muro praticamente, ha battuto un muro e poi è stata anche talmente brava da continuare, anche quando ha finito poi la sua carriera sportiva, per dare ad altre la stessa possibilità che lei ha avuto. Oggi infatti Nawal ha un ruolo chiave nel Comitato Olimpico Internazionale. Certo, ma è molto stimata nell'ambiente, lei adesso nella commissione di coordinamento per l'Olimpiade di Rio, e quindi diciamo che ha una figura politica ormai ben chiara nello sport, perché è apprezzata perché è una donna di buon senso ed è una donna che si batte per migliorare le condizioni della donna in Africa e nel mondo. Tornando al caso di Gonchek Gavami, credi che gli appelli del mondo dello sport possano servire per la sua liberazione? Ma io penso che lo sport può farlo. È chiaro che in certe situazioni ci vuole un pochettino più di tempo, però lo sport, quando riesce a far sentire la sua voce, gradualmente riesce poi anche a vincere, perché guarda che in fondo lo sport, nel momento più difficile per lo sport, quello del boicottaggio olimpico dell'80 e dell'84, ne è uscito rafforzato e ha convinto la gente che era importante, era un fenomeno sociale importante da difendere. Quindi io dico che si arriverà gradualmente anche a quello, e noi speriamo di poter aiutare tutte le persone nel mondo ad avere il diritto di poter sia assistere a delle gare che anche a far parte di un mondo sportivo a pieno titolo. Si torna a ipotizzare poi proprio l'idea del boicottaggio nei confronti dell'Iran ora. Pensi possa essere uno strumento efficace? Ma secondo me l'opzione politica è quella più importante. Bisogna fare in modo che non succeda più. È un boicottaggio, alla fin fine, può anche, sotto certi aspetti, talvolta essere negativo, perché la gente non se ne accorge più. Perché diciamo che tu puoi avere un effetto sul boicottaggio quando hai persone molto importanti che possono vincere, dei personaggi a livello mondiale, ma l'Iran è forte in sport che sono più che altro di zona, no? E quindi cosa fai? Costringi degli atleti che credono fermamente nei valori dello sport e che sono anche contro certe situazioni politiche nel loro paese a non dover partecipare. Secondo me sacrifichi la vita di altri e non trovi lo stesso la soluzione, perché il boicottaggio ti porta sempre a una reazione negativa, mentre invece sono ad aumentare i contatti politici perché ciò non avvenga più. Gianni Merlo, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia. Grazie a te. Continueremo ovviamente a seguire gli sviluppi del caso Gavami e del controverso rapporto tra sport e mondo femminile a Teheran e dintorni. Intanto grazie a Fabio Cantadori per aver curato la regia di questa puntata di Olimpia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima, come sempre alle 16:30. Ancora un saluto da Dario Ricci.